La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Una mattinata di fuoco al Senato, dove il PDL ha proposto di dimezzare la pena per concorso esterno in associazione mafiosa. A beneficiarne anche Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni in secondo grado. Giro di vite anche sulle intercettazioni, ma subito il PD boccia il provvedimento come inaccettabile e contraria anche la Lega. Lo sconto ci sarebbe anche per Nicola Cosentino e Raffaele Lombardo. Ricordo i nostri sms 349-238-6666. Una notizia questa di poco fa, mentre stamattina è stata rinviata sempre in Senato la riunione della Giunta per le immunità e le elezioni per la nomina del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza. È proprio qui che il Movimento 5 Stelle ha intenzione di chiedere il voto sulla non eleggibilità di Silvio Berlusconi per conflitto di interesse su una legge vigente dal 57. Ma sentiamo cosa ne pensa nel PDL Enrico Costa, capogruppo in Commissione Giustizia della Camera. Ma devo dire che è una considerazione totalmente infondata sul piano giuridico e sul piano dei precedenti parlamentari. Quindi voi che cosa farete in questo caso al Senato? Combatterete contro questa norma? Vabbè, è chiaro che da parte nostra ci sarà assolutamente una opposizione rispetto alle tesi del Movimento 5 Stelle, che puntano chiaramente a forzare totalmente quelle che sono le norme di legge, quelli che sono i precedenti. Ma pensate che dietro questa mossa c'è anche il tentativo di spaccare la maggioranza? Ma io non so quali siano le ragioni che stimolino il Movimento 5 Stelle a portare avanti queste tesi, ma sono tesi assolutamente assurde e che chiaramente pretestuose, finalizzate non sicuramente a far valere le ragioni giuridiche, ma a far valere certamente del resto. Zanda però ha già detto sì, in effetti il Berlusconi sarebbe ineleggibile. Che cosa succede se il PD vota la norma? Questa norma salta il governo? Devo dire che ci sarebbero secondo me conseguenze politiche. Molto gravi. Penso proprio di sì. E questo era Enrico Costa in Transatlantico. Quello che avete sentito, il rumore di sottofondo, si chiama Cicalino di Montecitorio ed è il segnale per i deputati di entrare in aula a votare. Una mossa di contrattacco da un Movimento 5 Stelle attaccato da più fronti, da ultimo anche la CEO, i vescovi italiani Bagnasco in testa, ammoniscono contro il populismo. Su questo e sugli attacchi al Movimento 5 Stelle sentiamo la deputata grillina Carla Ruocco. Mi basta popolo. Cosa significa il populismo? Io penso che in questo paese sia nata una voglia da parte del popolo proprio di riappropriarsi del proprio futuro. Quindi, se populismo nell'accezione del Vaticano vuol dire che il popolo finalmente prende coscienza di se stesso, che dire, viva il populismo? Altro attacco, la legge antimovimenti. I partiti, dice l'articolo 49, concorrono alla vita democratica, però Zanda e la Finocchiaro vorrebbero società giuridiche con statuto. È chiaro che è mirato questo attacco, è mirato, è chiaro, è talmente lampante che non so chi possa aver consigliato a queste persone di fare un attacco così mirato e politicamente scorretto, che davanti, mettendosi proprio davanti ai propri elettori, scoprendosi in questo modo, cioè che non è neanche un attacco politico intelligente. Loro hanno detto: ma noi già l'avevamo presentato la scorsa legislatura, non ci credete? L'hanno già presentata la scorsa legislatura, l'hanno già fatto, di fatto sono 20 anni che adesso proprio ora rispunta con questa veemenza, tutta questa voglia di far fuori proprio il particolare che riguardano proprio la nostra tipologia di organizzazione, quindi mi sembra il solito pretesto, francamente. Milena Gabanelli, il vostro idolo vi attacca, dove vanno a finire i soldi di questo blog? Addirittura Grillo dice è in perdita. Se lo dice probabilmente lo dimostrerà pure, sicuramente ci saranno tutte le carte in regola per dimostrare che effettivamente è in perdita, quindi significa che tutti questi soldi poi non circolano. Il Movimento 5 Stelle sotto attacco, ma all'attacco, perché al Senato proponete l'ineleggibilità di Silvio Berlusconi. Con la differenza che mentre noi ci appelliamo a una legge che stava lì da tempo immemore, loro la stanno costruendo ad hoc proprio per farci fuori adesso. Invece noi facciamo riferimento a una legge che già c'era, quindi semplicemente applichiamo la legge, punto. Questa era Carla Ruocca. Ricordiamo che Beppe Grillo, anche attaccato sul suo blog, ha detto: i partiti sono il contrario di democrazia. Va bene, ovviamente questo è Beppe Grillo. E allora parliamo della famosa legge antimovimenti che Zanda e Finocchiaro confermano di non ritirare, anche di quanto succede nel PD, dove è ancora in atto lo scontro sull'IMU tra Epifani e Renzi. Allora abbiamo chiesto ad Alessandra Moretti, una giovane deputata del PD, se i democratici la smetteranno mai di litigare. Sentiamo. Noi non litighiamo, ci confrontiamo in maniera molto autentica, vera, ma non si litiga, insomma la politica è fatta di confronto e anche di scontro talvolta, purché sia sempre, come dire, leale e franco. Ma sull'IMU ha ragione Epifani o ha ragione Renzi? Ma sull'IMU è una delle tematiche più rilevanti che dobbiamo assolutamente affrontare, portando avanti i principi che il Partito Democratico ha sempre portato avanti anche in campagna elettorale. E quindi su questo avremo modo di discutere, ma non è mica detto che dobbiamo avere sempre tutti la stessa opinione, possiamo anche avere opinioni diverse. Non è che a Renzi un po' è dispiaciuto il fatto che una personalità come Epifani è diventato segretario, quindi lo offusca un po'? Beh no, Renzi ha scelto di non essere in questo momento della partita, perché giustamente ha una città grande come Firenze da amministrare, e poi perché intende fare, come dire, un altro percorso. Però io credo che il dibattito interno debba esistere, insomma, nel nostro partito. E un'altra cosa, i grillini sono un po' sotto attacco, c'è questa proposta di legge contro i movimenti per i partiti con personalità giuridica. Ma io penso che questa proposta di legge, fatta così, ma soprattutto in questo contesto di grande critica, non possa, come dire, avere uno sbocco positivo, nel senso che è giusto ed è bene che leggi sui partiti siano condivise da tutti i gruppi parlamentari, compreso anche il Movimento 5 Stelle. Devo dire che questa è una proposta di legge che era già stata presentata nella precedente legislatura, quindi non c'è nulla di strumentale contro il Movimento 5 Stelle, ma come dire, è un tema che va affrontato anche questo, e lo affrontiamo però tutti insieme. Quindi Zanda e la Finocchiaro se lo potevano risparmiare, ecco. Ma no, io penso che Zanda e Finocchiaro l'abbiano riproposto, perché era stato presentato già nella scorsa legislatura. E in questo momento, vista la polemica che si è scatenata, è bene, secondo me, fermarsi un po' e fare un'ulteriore riflessione. E questa era Alessandra Moretti. Molti vostri sms, ne leggo uno: la cosa che spinge il movimento è la legalità. Antonio da Como invece dice: stanno solo aspettando che inizi una rivolta popolare contro questi cialtroni, ora di scendere in piazza. Insomma, i vostri sms sono sempre molto critici nei confronti del governo, e allora noi continueremo ad informarvi. Un saluto da Elisabetta Fiorito.